Cari fratelli e sorelle, in queste catechesi vogliamo un po' capire che cosa sia. Grazie. Che cosa sia la Chiesa? E l'ultima volta abbiamo meditato sul tema della tradizione. Abbiamo visto che tradizione non è una collezione di cose, di parole, come una scatola di cose morte, ma la tradizione è il fiume vivo della vita che viene dalle origini, da Cristo fino a noi, e ci coinvolge nella storia di Dio con l'umanità. Questo tema della tradizione è così importante che vorrei ancora oggi soffermarmi su questo punto, perché è di grande rilievo per la vita della Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha rilevato al riguardo che la tradizione è apostolica, anzitutto nelle sue origini, dice il Concilio, Dio con somma benignità dispose che quanto Egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Perciò, sempre il Concilio, Cristo Signore, nel quale trova compimento tutta la rivelazione del sommo Dio, ordinò agli Apostoli di predicare a tutti, comunicando loro i doni divini, il Vangelo come fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale. Il Concilio prosegue poi annotando come questo impegno sia stato fedelmente eseguito, cito di nuovo, dagli Apostoli, i quali nella predicazione orale, con gli esempi e le istituzioni, trasmisero sia ciò che avevano ricevuto dalle labbra di Cristo, dal vivere insieme con Lui e dalle sue opere, sia ciò che avevano imparato per suggerimento dello Spirito Santo. Con gli Apostoli, aggiunge il Concilio, collaborarono anche uomini della loro cerchia, i quali, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, misero in iscritto l'annunzio della salvezza. Capi dell'Israele escatologico, anche essi, gli Apostoli, dodici, quante erano le tribù del popolo eletto. E gli Apostoli continuano così la raccolta iniziata dal Signore e lo fanno anzitutto trasmettendo fedelmente il dono ricevuto, la buona novella del Regno di Dio venuto agli uomini in Gesù Cristo. Il loro numero 12 esprime innanzitutto, come abbiamo visto, la continuità con la santa radice Israele, popolo delle 12 tribù, ma questo numero esprime anche la destinazione universale del loro ministero a portatore di salvezza fino agli estremi confini della terra. Lo si può cogliere dal valore simbolico che hanno i numeri nel mondo semitico. 12 risulta dalla moltiplicazione di 3, numero perfetto, e 4, numero che rinvia ai 4 punti cardinali e dunque al mondo intero. La comunità nata dall'annuncio evangelico si riconosce convocata dalla parola di coloro che per primi hanno fatto esperienza del Signore e da Lui sono stati inviati. Essa sa di poter contare sulla guida dei dodici, come anche sulla guida di coloro che essi via via si associano come successori nel ministero della parola e nel servizio alla comunione. Di conseguenza, la comunità si sente impegnata a trasmettere ad altri la lieta notizia della presenza attuale del Signore e del suo mistero pasquale operante nello Spirito. Lo si vede bene evidenziato in alcuni passi dell'epistolario paolino. Ai Corinzi, per esempio, dice San Paolo: vi ho trasmesso quello che anche io ho ricevuto. E questo è importante. San Paolo si sa originariamente chiamato da Cristo con una vocazione personale originaria. Lui anche è un vero apostolo e tuttavia conta fondamentalmente per lui la fedeltà a quanto ha ricevuto. Non voleva inventare un suo nuovo cristianesimo paolino, ma insiste: ho trasmesso quanto anch'io ricevuto, ha trasmesso il dono iniziale che viene dal Signore ed è la verità che salva. E poi verso la fine della vita dice a San Timoteo: custodisce il buon deposito con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi. Lo mostra efficacia, lo mostra con efficacia anche un'antica testimonianza della fede cristiana formata da Tertulliano verso l'anno 200. Scrive Tertulliano: gli apostoli sul principio affermarono la fede in Gesù Cristo e stabilirono chiese per la Giudea e subito dopo, sparsi per il mondo, annunziarono la medesima dottrina e una medesima fede alle nazioni e quindi fondarono chiese presso ogni città. Da queste poi le altre chiese mutuarono la propagine della loro fede e il seme della dottrina e continuamente la mutuano per essere appunto chiese. In questa maniera anche esse sono ritenute apostoliche come discendenza delle chiese degli apostoli. Il Concilio Vaticano II, per ritornare al Concilio, commenta: ciò che fu trasmesso dagli apostoli comprende tutto quanto contribuisce alla condotta santa e all'incremento della fede del popolo di Dio. Così la Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede. La tradizione, per riassumere, è dunque il Vangelo vivo. La Chiesa trasmette tutto ciò che è e che crede, lo trasmette nel culto, nella vita, nella dottrina. La tradizione è il Vangelo vivo, annunciato dagli apostoli nella sua integrità, in base alla pienezza della loro esperienza unica e irripetibile. Per opera loro la fede viene comunicata agli altri fino a noi e fino alla fine del mondo. Con altre parole, La tradizione è la storia dello Spirito Santo che agisce nella storia della Chiesa attraverso la mediazione degli Apostoli e dei loro successori, in fedele continuità con l'esperienza delle origini. Ancora un'ultima citazione della Chiesa antica. Il Papa San Clemente Romano, verso la fine del primo secolo, scrisse: «Gli Apostoli ci annunziarono il Vangelo inviati dal Signore Gesù Cristo, e Gesù Cristo fu mandato da Dio». Cristo viene dunque da Dio, gli Apostoli da Cristo, entrambi procedono ordinatamente dalla volontà di Dio. I nostri apostoli vennero a conoscenza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo che sarebbero sorte contese intorno alla funzione episcopale, perciò prevedendo perfettamente l'avvenire stabilirono gli eletti e diedero quindi loro l'ordine affinché alla loro morte altri uomini provati assumessero il loro servizio, e questa catena del servizio continua fino ad oggi, fino alla fine del mondo. Il mandato conferito da Gesù agli Apostoli è, come vediamo, stato da essi trasmessi ai loro successori. Al di là dell'esperienza del contatto personale con Cristo, esperienza, come abbiamo detto, unica e ripetibile, gli Apostoli hanno trasmesso ai successori l'invio solenne nel mondo ricevuto dal Maestro. La parola apostolos, parola greca, viene dalla parola apostellen, che vuol dire inviare, sono gli inviati del Signore. E questo invio apostolico, come abbiamo sentito nel Vangelo, nell'inizio di questa udienza, implica tre elementi: fate discepoli le nazioni, cioè servizio pastorale, battezzandole, servizio liturgico, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato, servizio profetico. Questo triplice servizio garantito dalla vicinanza del Signore che dice: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E così, in un modo diverso dagli Apostoli, abbiamo anche noi una vera e personale esperienza della presenza del Signore risorto. Attraverso il ministero apostolico è così sempre Cristo stesso a raggiungere chi è chiamato alla fede. La distanza dei secoli è superata e il risorto si offre vivo e operante per noi nell'oggi della Chiesa e del mondo, e questa è la nostra grande gioia, che nel fiume vivo della tradizione Cristo non è distante 2000 anni, ma è realmente sempre con noi e ci dona la verità, ci dona la luce che ti fa vivere e ti fa trovare la strada verso il futuro.